siamo inutili robot. Tu la faccia di una aliena, io la rabbia di una iena, ma non voglio farti pena, no. È tutto scritto sul muro della vita, c'è un'entrata e c'è un'uscita, ma da questo labirinto me ne andrò. Nel bagno schiuma di un sabato di amici ad ubriacarmi di parole, camminando nel blu delle tre. La strada di un ribelle, ballerine sopra un filo che attraversa la città. Ce ne sono tante di stalle, di palestre, mille occhi di finestre, dentro me non c'è più.